non sarei da sola con tutto quello che sento ora, che mi tiene sveglia la notte. No, non sarei, non mi sarei pentita. Sì, ma poi capita la vita che toglie la saliva e il cielo dalle dita. Case si accendono come quando gioca la nazionale, e tra una cosa e l'altra dici che ti amo male. Ma io non lo so fare, imparo piano piano un po' come a suonare. C'è una città dove tu non esisti, mi vedo là con gli occhi sempre zitti. Dove sono io e poi non io, cambio col sole, esco ma sbaglio persone. Ora sono come sono e mi piace, senza trucco, quattro amici e risate. Resto qui con te a scrivere un nuovo finale. Non c'è niente da dimostrare, non devo essere chi io non sarei, io non sarei. Io ti avrei cercato dappertutto, nei locali e nei musei. Non avrei mai pensato fossi qui negli occhi miei. Hai capovolto la salita, sei entrato dalla via d'uscita. E non vale convincersi che tanto il mondo resta tale e quale, e tra una cosa e l'altra dici che ti amo male. Ma che ci posso fare? Imparo piano piano come a camminare. C'è una città dove tu non esisti, mi vedo là con gli occhi sempre zitti. Dove sono io e poi non io, cambio col sole, esco ma sbaglio persone. Ora sono come sono e mi piace, senza trucco, quattro amici e risate. Resto qui con te a scrivere un nuovo finale. Non c'è niente da dimostrare, non devo essere chi chi vede in uno sguardo solamente un altro giudice. Risponde tutto ok per abitudine. Sono qui a scrivere un nuovo finale. Non c'è niente da dimostrare, non devo essere chi io non sarei, io non sarei. Non devo essere chi io non sarei, io non sarei.